Commissario, cambio. Attenzione, binario 45, ti ascoltate il doppio ru che chiama, cambio. Alleluia. Andando, andando. E caldo, ce n'è, ce n'è. Cosa? Caldo, cazzo, 35 gradi, visio. Guarda, stamattina non c'era più caldo. Sì, sì, adesso di meno. Adesso ho 23-24 gradi, ma stamattina, capo, c'erano 35 gradi. Uia. Non c'è per domani, ce n'è ancora di più. Però sai cosa che ci butto la moneta? Direttamente col coso, con i tassi di via. No, così sta. devo mettere esterna, però Claudio, non lo metto internamente alla casa, che lo metto esterno che non si veda, faccio un poco la porta finestra e la faccio passare esternamente a livello del marmo che non si vede nemmeno, sotto il marmo perché rimane uno spessore sotto il marmo, li metto la canaletta e la faccio passare di sotto, poi faccio un altro buco dall'altra parte della finestra, li metto un pezzettino piccolo di canaletta che si vedrà sicuramente quello lì e basta, poi tutto il resto non si vede niente. Beh, fosse stato il legno magari sarebbe stata l'unica soluzione. Sì, fai anche prima. dovuto buttare giù e ho strappato la parte dove c'era la serratura. Con la vettura che l'hanno ricostruita, poi rivedi certe cose, non si vede nulla. Collega qua in Sassari, movimento 20 km da Sassari. due, e vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon lavoro per il Gianni Doppio Room, e avanti di nuovo per i saluti, stazione Sparviero. Sì, 5 Celle Simone, anch'io ti auguro.